English Bit di Giulia Crivelli. Power. A primer on power dressing from House of Cards. Il New York Times ha dedicato un lungo articolo, riccamente corredato di fotografie, all'abbigliamento delle donne di potere. Il titolo è Suggerimenti per il power dressing dalla serie House of Cards. La parola che ci interessa è power, ma vediamo prima primer. Oltre a significare fondotinta, si usa per indicare un esempio, un insieme di regole da seguire per orientarsi su argomenti che non si conoscono bene. The president doesn't have a primer on national security. Il presidente non ha un manuale sulla sicurezza nazionale. Ed eccoci a power, sostantivo che significa letteralmente potenza o potere. Da qui il sostantivo power dressing, a style of dressing in which people wear formal and expensive clothes to emphasize how important they are and their jobs are. Scegliere vestiti formali e costosi per enfatizzare quanto una persona si senta importante come tale o per il lavoro che fa. House of Cards è naturalmente la serie TV ideata da Netflix con Robin Wright e Kevin Spacey, che nella quinta stagione sono gli inquilini della Casa Bianca. Il New York Times infatti mostra i look di Melania Trump durante gli ultimi viaggi all'estero, quelli in Medio Oriente e in Italia, e quelli di Claire Underwood, il personaggio interpretato da Robin Wright. E veniamo a power. He has the power to make things very unpleasant for us. Ha il potere di rendere le cose molto spiacevoli per noi. The present government has been in power for 2 years. L'attuale governo è al potere da 2 anni. Purchasing power è, come in italiano, il termine economico che indica il potere di acquisto. Poi c'è il significato di potenza, anche energetica. The ship was helpless against the power of the storm. La nave non poteva nulla contro la potenza della tempesta. They've switched off the power. Hanno tolto l'elettricità. Come verbo, il significato è ovviamente simile. The aircraft is powered by a jet engine. L'aereo funziona con un motore jet. She powered her way into the lead. Si fece largo a forza, a potenza, verso il vertice. Tra le parole composte possiamo segnalare power nap, sonnellino ristoratore, quindi nap, sonnellino, power, ristoratore, power outage, interruzione della fornitura di energia o di elettricità, e power station, che è la centrale elettrica.